Allora sì, buongiorno a tutte e a tutti. La plenaria è in corso, sono uscito adesso dalla sala assemblea di Porto Fluviale, dove si sta svolgendo questo incontro nazionale. Ci sono molte città presenti e sono uscito mentre interveniva una compagna in rappresentanza della rete Campagne in Lotta, che stava proprio affrontando la questione che riguardava un po' la composizione sociale di questo movimento che si sta vedendo qui a Porto Fluviale. Cioè, la rete di abitanti della crisi è un insieme di esperienze e di lotte che ha una forte composizione sociale meticcia, per cui si sta avvicinando sostanzialmente alle mobilitazioni autunnali nella costruzione di un no sociale che non ha sicuramente il no al referendum come punto d'arrivo, ma è un no al governo Renzi e alle politiche sociali di questo governo, che coglie l'occasione del referendum per mobilitarsi. E per cui è chiaro che i compagni di strada che stanno in qualche modo evocando il no non sono amici di questo percorso, ma spesso invece hanno proprio governato sulle teste di chi si sta organizzando per mobilitarsi in questo autunno, e sono proprio i D'Alema o i Brunetta che tu evocavi, ma io ci aggiungerei anche Salvini con la Lega, che è stata ampiamente al governo con Berlusconi. Per cui diciamo che le dinamiche politiciste che si stanno sviluppando intorno al no al referendum non interessano a questa rete, ma interessa costruire un percorso di lotta e una mobilitazione ampia, larga, partecipata, conflittuale a ridosso del referendum stesso. È chiaro che queste decisioni verranno prese probabilmente il 1° ottobre, quando ci sarà l'assemblea alla Sapienza convocata per discutere proprio di questo, anche magari conoscendo la data del referendum. Qui stiamo più ragionando su come ripartire, come abitare nella crisi. Sostanzialmente stiamo proponendo di ripartire dal 31 ottobre. Il 31 ottobre del 2013 fu una giornata molto importante per i movimenti per il diritto all'abitare, un momento di conflitto molto alto. Le risposte, la reazione del governo fu durissima e anche la risposta giudiziaria fu altrettanto aggressiva. E siamo ripartiti da qui, cioè l'idea è lanciare dal 31 ottobre 10 giorni di lotta dislocata in tutta Italia, rideclinando le pratiche di riappropriazione, cioè sfidando sostanzialmente l'articolo 5 e le limitazioni che quella legge prevede sulle residenze, sulle utenze e su molto altro, e ripartire esattamente da quella giornata di lotta e da quel coraggio e da quel conflitto. E ogni città, ogni territorio declinerà le dinamiche di riappropriazione sul tema casa reddito e saprà in qualche modo costruire anche le condizioni per dare un contributo importante e decisivo al lancio della mobilitazione a ridosso del referendum. Si sta decidendo anche sostanzialmente di raggiungere più città possibili che magari sono in relazione con abitare nella crisi ma non ce la fanno a muoversi per motivi economici o per altre questioni, anche piccole città, anche piccoli territori. Faremo uno sforzo da questo punto di vista, ci stiamo organizzando e proveremo a coinvolgere il maggior numero di città possibili in questa 10 giorni di lotta di novembre e nella costruzione della manifestazione a ridosso del referendum. Abbiamo dato l'adesione alla manifestazione su Bagnoli, che ci sarà il 23 settembre qui a Roma, e la manifestazione a fianco del popolo curdo, che ci sarà invece il 24 settembre. due adesioni formali, ufficiali, e anche la voglia di essere in tanti e in tante insieme in quelle due giornate. Bene, insomma, vediamo che le cose si muovono, no? Stamattina noi abbiamo parlato molto diffusamente dei morti sul lavoro e dell'uccisione dell'operaio egiziano, sì, della logistica. Che anche durante la nostra assemblea è echeggiato più volte il dramma. Anche perché dentro quell'assemblea molti sono lavoratori che stanno nella logistica a lavorare, insomma. Sì, sì, sì. Il terzo intervento nella plenaria di oggi è stato proprio legato alla questione della logistica. È intervenuto un compagno che è proprio intervenuto su questa questione, ricordando la relazione grande che c'è tra il mondo del lavoro precario, il mondo del lavoro della logistica, le occupazioni e la battaglia che si fa insieme spesso, e che spesso ci ha visto repressi, per cui queste morti sono morti nostre, sono omicidi che vanno in qualche modo vendicati. Bene, ti ringraziamo, ricordiamo pure che domani prosegue la giornata a Piazzale Clodio a partire dalle 9, perché sì, ci sono processi che vogliono ancora restringere questa cosa. Ti riguarda a te, a Luca, e non riguarda, perché è personalizzato, e simbolicamente riguarda tutti quanti. Le vittime siete voi, dovute all'esposizione di questi conflitti, ma un giudizio su di voi è un giudizio sul movimento che lotta in generale. Pertanto anche l'appuntamento di domani alle ore 9 a Piazzale Clodio è il proseguimento di queste, diciamo, due giornate, e facciamo l'appello a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, ai compagni, a mobilitarsi, a chi è possibilitato domani mattina di partecipare pure a Piazzale Clodio. Saranno presenti anche molte delegazioni a livello nazionale che hanno deciso di rimanere, di non ripartire, e saranno presenti in piazza insieme a noi. Oggi si svolgerà anche una riunione nel tardo pomeriggio, proprio per affrontare queste questioni legate alle dinamiche repressive, che non riguardano sicuramente soltanto Roma e che stanno vedendo molti compagni e compagne coinvolti, e per cui si farà anche questa discussione. E simbolicamente, ma materialmente, sarà anche presente Nicoletta Dosio, che sta girando tutta l'Italia violando le restrizioni che gli hanno imposto. Sì, diciamo che i comitati NOTAV ci hanno detto che sceglievano questa data come tappa romana per il loro NOTAV tour, diciamo, per cui ci sarà una presenza anche militante, diciamo, di questo mondo in lotta. Io volevo approfittare del fatto che ero al telefono in trasmissione per ricordare anche l'assemblea pubblica che si svolgerà giovedì prossimo nel pomeriggio alle 18 davanti alla prefettura in piazza Santi Apostoli. Roma che non vuole che la città sia governata in termini di ordine pubblico, che teme sostanzialmente che in assenza di un governo politico, perché questo oggi stiamo vivendo, sia la questura a sostituirsi al governo della città. Per cui l'assemblea pubblica che lanciamo, stiamo chiedendo la partecipazione più larga possibile delle reti, dei compagni, delle compagne, di tutti coloro che dentro questa città hanno necessità di far ripartire una dinamica di conflitto, e che continuano a pensare che le cose non si stanno risolvendo affidandosi ad un confronto e ad una relazione col Movimento 5 Stelle.